C'era un'altra lunga serata in compagnia di Mrs. Gibson da superare, ma in quell'occasione la piacevole occupazione della cena portò via almeno un'ora. Era infatti una delle manie di Mrs. Gibson, che mandava in collera Molly, quella di rispettare ogni cerimonia in modo molto formale, sia che ci fossero 20 commensali, sia che si trattasse solo di 2 persone. Così, sebbene Molly sapesse benissimo, e la sua matrigna altrettanto, e anche Maria fosse perfettamente consapevole che né Mrs. Gibson né Molly avrebbero toccato il dessert, questo fu servito in tavola con la stessa cura usata se fosse stata presente Cinzia, che adorava mandorle e uvetta. O Mr. Gibson, che non sapeva resistere ai datteri, benché protestasse sempre contro le persone della nostra posizione sociale che si fanno servire il dessert tutti i giorni. E la stessa Mrs. Gibson quella sera si scusò con Molly, usando le medesime parole che aveva spesso rivolto a Mr. Gibson. Non è una stravaganza, perché non c'è bisogno che lo mangiamo. Io non lo faccio mai. Ma è bello da vedere, e Maria può così comprendere cosa sia necessario nella vita quotidiana di ogni famiglia che conta. Per tutta la sera i pensieri di Molly vagarono lontano, anche se lei riuscì a mantenere una parvenza di attenzione nei confronti di quanto Mrs. Gibson andava dicendo. Pensava a Osborne, alla sua confidenza improvvisa e incompiuta, al suo aspetto malato. Si chiedeva quando Roger sarebbe tornato a casa e desiderava che arrivasse, tanto si disse, per Osborne quanto per se stessa. E così si costrinse all'autocontrollo. Che cosa aveva che spartire lei con Roger? Perché doveva aspettare con tanta ansia il suo ritorno? Era Cinzia che doveva provare quel sentimento, solo che il giovane era un amico così sincero per Molly che lei non poteva evitare di considerarlo come un sostegno nei tempi travagliati, che quella sera non sembravano così lontani a venire. Poi prese il sopravvento il ricordo di Mr. Preston e della piccola disavventura con lui. Come le era parso arrabbiato! Come aveva potuto Cinzia averlo trovato così piacevole da cacciarsi in un guaio così abominevole, che però adesso era risolto. Così Molly si lasciava andare alle sue fantasie e alla sua immaginazione, senza sognarsi minimamente che quella sera stessa, e a neanche mezzo miglio da dove lei sedeva, intenta a cucire, era in corso una fitta conversazione che avrebbe dimostrato che il guaio, come lo definiva lei, con il suo lessico fanciullesco, era lungi dall'essere risolto. Gli scandali dormono d'estate, relativamente parlando. La loro natura è opposta a quella dei ghiri. L'aria calda d'intorno, il bighellonare fuori casa, lo stare in giardino, il parlare dei fiori, il preparare marmellate, d'estate mettevano a riposo il demonietto malvagio della parrocchia di Hollingford. Ma quando le sere erano più brevi, la gente si radunava intorno al fuoco e disponeva i piedi in circolo, non posati sul parafuoco, quello non era permesso. Allora sì che era il momento delle chiacchiere in confidenza. O durante le pause, che consentivano ai vassoi del tè di girare tra i tavoli dove si giocava a carte, quando coloro che erano pacificamente inclini a tentare di fermare le accalorate discussioni sul vecchio trucchetto e quella tendenza femminile, particolarmente fastidiosa, di inforcare la stampella e mostrare come furono vinte le battaglie, allora bricioline e scampoli di notizie quotidiane venivano in superficie, come per esempio: Martindale ha alzato il prezzo dei tagli di carne migliori a mezzo penny la libra. Oppure, è un peccato che Sir Harry abbia ordinato per la Società del Libro un altro volume di veterinaria. Phoebe e io abbiamo provato a leggerlo, ma non ha un grande interesse generale. Oppure, mi domando cosa farà Mr. Ashton ora che Nancy sta per sposarsi. Insomma, lavora per lui da 17 anni. È veramente assurdo che una donna della sua età pensi al matrimonio. Così le ho detto questa mattina quando l'ho incontrata nella piazza del mercato. Così parlò Miss Browning la sera in questione. La sua mano di carte giaceva accanto a lei sul tavolo coperto di panno verde, mentre lei sgranocchiava la ricca pound cake di una certa Mrs. Dawes che si era trasferita a Hollingford di recente. Il matrimonio non è così male come voi pensate, Miss Browning, obiettò Mrs. Goodenough, a sostegno del sacro vincolo che lei aveva contratto per 2 volte. Se io avessi incontrato Nancy, avrei espresso un'opinione del tutto differente. È una gran cosa poter decidere cosa mangiare a cena senza che nessuno mai interferisca. Se è tutto qua, esclamò Miss Browning, raddrizzando le spalle. Questo lo posso fare anch'io, e forse anche meglio di una donna che ha un marito da contentare. Nessuno può dire che io non abbia contentato i miei mariti, entrambi, anche se Jeremy era più schizzinoso del povero Harry Beaver. Ma come ero solita dir loro, lascia che al cibo ci pensi io. Per te è meglio così, piuttosto che sapere in anticipo cosa sarà servito. Allo stomaco piacciono le sorprese. E nessuno dei due si pentì mai di avermi dato fiducia. Avete la mia parola, fagioli e pancetta, e la Nancy di Mr. Ashton a casa propria. Sono meglio di tutte le animelle e i polletti primaverili che lei gli abbia preparato da 17 anni a questa parte. Ma se volessi, potrei raccontarvi qualcosa che è molto più interessante del matrimonio della vecchia Nancy con un vedovo con 9 figli. Se non che, dato che questi giovincelli si incontrano in privato, clandestinamente, forse non è giusto che io riveli i loro segreti. Di certo non voglio sentir parlare di incontri clandestini tra giovanotti e signorine, dichiarò Miss Browning, buttando indietro la testa. È già abbastanza degradante per le persone coinvolte, secondo me, se si mettono ad amoreggiare senza il permesso ufficiale dei loro genitori. So che l'opinione comune è cambiata a proposito di questo, ma quando la povera Grazia si sposò con Mr. Burley, egli scrisse a mio padre senza mai neanche averle rivolto un complimento, o averle detto più che le cose più normali e più indifferenti. E mio padre e mia madre la mandarono a chiamare nello studio di mio padre, e lei disse che non era mai stata tanto spaventata in vita sua. E loro osservarono che era una buona offerta, che Mr. Burley era un uomo degno, e speravano che lei si sarebbe comportata bene con lui quando fosse venuta a cena quella sera. Dopodiché gli fu concesso di venire in visita 2 volte alla settimana, fino a che non si sposarono. Io e mia madre lavoravamo di cucito sul sedile del bovino del salotto del rettorato e Grazia e Mr. Burley sedevano dall'altro lato della stanza. E quando battevano le 9, mia madre attirava sempre la mia attenzione su qualche fiore o qualche pianta del giardino, perché a quell'ora lui doveva congedarsi. Senza offesa per i presenti, io sono propensa a considerare il matrimonio una debolezza, cui tendono molte persone meritevoli, ma se proprio si devono sposare, che ne traggano il meglio e lo affrontino con dignità e convenienza. Altrimenti, se ci sono in gioco cattive azioni, incontri clandestini e cose di questo tipo, io non ne voglio sapere. Credo tocchi a voi giocare, Mrs. Dawes. Perdonerete la mia franchezza sull'argomento del matrimonio. Mrs. Goodenough qui può dirvi che sono una persona molto schietta. Non è la vostra schiettezza, è ciò che dite che è contro di me, Miss Browning. Protestò Mrs. Goodenough, offesa, eppure pronta a giocare la sua carta appena venne il suo turno. Da parte sua, Mrs. Dawes era troppo ansiosa di entrare nel circolo più altolocato dell'intera società di Hollingford per obiettare a una qualunque affermazione di Miss Browning, la quale, essendo la figlia di un rettore deceduto, rappresentava la cerchia più elitaria del villaggio, a proposito di celibato, matrimonio, bigamia o poligamia. Così, il resto della serata trascorse senza ulteriori riferimenti al segreto che Mrs. Goodenough ardeva dal desiderio di rivelare. Se non che un'osservazione di Mrs. Browning a propos d'Orien, nel silenzio del dare le carte, poté essere ritenuta in connessione con la conversazione precedente. E la disse d'improvviso: Non so cosa io abbia fatto perché un uomo debba rendersi sua schiava. Se si stava riferendo a una qualsiasi prospettiva di pericolo di matrimonio che ella vedesse aprirsi nella propria fantasia, poteva stare tranquilla. Fu però un'osservazione a cui nessuno badò, perché tutte erano troppo impegnate nella partita decisiva. Solo quando Miss Browning si fu congedata, presto, perché Miss Febb aveva il raffreddore ed era bloccata a casa, Mrs. Goodenough sbottò. Beh, ora posso dire ciò che penso e affermare che se c'era uno schiavo tra noi due, quando Goodenough era vivo, non ero certo io, e non penso sia stato carino da parte di Miss Browning darsi tutte quelle arie sulla verginità quando nella stanza c'erano 4 vedove che per mariti hanno avuto 6 uomini onesti. Senza offesa, Miss Airy, rivolgendosi a una sfortunata piccola zitella, che ora che Miss Browning era andata via si ritrovava a essere la sola rappresentante del nubilato. Potrei raccontarle di una ragazza a cui lei è molto legata. Che ben avviata sulla strada verso il matrimonio, e nel modo più truffaldino che abbia mai sentito. Esce al crepuscolo per incontrare il suo innamorato, proprio come se fosse la mia Sally o la vostra Jenny. E per di più il suo nome è Molly, il che, come ho pensato spesso, dimostra il cattivo gusto di chi ha scelto questo nome per lei. Potrebbe benissimo essere una sguattera. E non è che si sia scelto uno qualunque. Si è cercato un bel tomo e anche piuttosto intelligente. Tutte attorno al tavolo apparivano incuriosite e intente alle rivelazioni che stavano sentendo, a eccezione della padrona di casa, Mrs. Dawes, che sorrise mentre i suoi occhi tradivano consapevolezza e tenne la bocca sigillata con aria saputa, finché Mrs. Goodenough non ebbe terminato la sua storia. Poi disse modesta: «Immagino state parlando di Mr. Preston e Miss Gibson. Perché? Chi ve l'ha detto?» ribatté sorpresa Mrs. Goodenough, girandosi verso di lei. «Non potete affermare che sia stata io. Ci sono tante Molly a Hollingford oltre a lei, anche se forse nessuna appartiene a una famiglia così importante. Io non ho mai parlato di lei, garantito.» «No, ma io so. Anch'io potrei raccontare la mia storia», continuò Mrs. Dawes. «No, davvero?» fece Mrs. Goodenough, molto curiosa e un po' gelosa. «Sì. Mio zio, Shepshanks, li ha incontrati lungo Park Avenue e gli ha fatto prendere un bello spavento, ha detto. E quando ha provocato Mr. Preston dicendogli di averlo trovato insieme alla fidanzata, lui non ha negato. Bene, adesso ormai questo è risaputo. Posso dire ciò che so io. Solo, signore, non voglio fare un torto alla ragazza, perciò dovete tenere segreto ciò che ho da rivelarvi. Naturalmente tutte promisero. Quello era facile. La mia Hannah, che ha sposato Tom Oakes e vive in Parsons Lane, neanche una settimana fa stava raccogliendo prugne e ha visto Molly Gibson che camminava in fretta lungo il sentiero, quasi di corsa, come se dovesse incontrare qualcuno. E la piccola Anna Maria, sua figlia, è caduta. E Molly, che è una fanciulla gentile, l'ha tirata su. Così, se Hannah avesse avuto qualche sospetto prima, dopo non ne ha avuto neanche uno. «Ma non c'era nessuno con lei o sì?» chiese ansiosamente una delle signore. Quando Mrs. Goodenough si interruppe per finire la sua fetta di torta, proprio in quel punto critico del racconto. «No, ho detto che sembrava che stesse andando a un appuntamento con qualcuno. Dopo un po', ecco che Mr. Preston corre fuori dal bosco e va proprio da Hannah e le chiede: «Buona donna, un bicchiere d'acqua, per favore, perché una signora è svenuta. E ha un attacco isterico, qualcosa del genere.» Ora, anche se lui non conosceva Hannah, Hannah conosceva lui. È più la gente che conosce lo stolto di quella che lo stolto conosce. E chiedo scusa, Mr. Preston, perché di certo lui non è uno stolto. E potrei dire di più, e questo l'ho visto con i miei occhi. Solo ieri l'ho sorpresa mentre gli consegnavo una lettera nel negozio di Grinstead, e lui lo guardava nero come il tuono. Perché se lei non si è accorta di me, lui sì. Ma è una cosa molto appropriata, commentò Miss Heyria. Perché ne fanno un tale mistero? A certa gente piace così, osservò Mrs. Dawes. Aggiunge pepe alla faccenda, portare avanti un corteggiamento clandestino. Sì, è come sale sulla pappa, convenne Mrs. Goodenough. Però io non pensavo che Molly Gibson fosse una di quelle, ecco. «I Gibson si danno tante arie», esclamò Mrs. Dawes, più con il tono di una domanda che di un'affermazione. «Mrs. Gibson è venuta a farmi visita.» «Sì, è probabile che sarete una paziente del dottore», disse Mrs. Goodenough. «Mi è sembrata molto affabile, anche se è amica intima della contessa e della famiglia delle Torri. E anche lei è proprio una signora. Cena tardi, ho sentito, in grande stile.» «Stile? Uno stile molto diverso da quello a cui Bob Gibson, suo marito, era abituato quando si è trasferito qui. Gli piaceva farsi le braciole di montone nell'ambulatorio, perché dubito che avesse fuochi da qualche altra parte. Allora lo chiamavamo Bob Gibson, ma nessuno ora oserebbe usare questo nomignolo. È come se pensasse di chiamarlo spazzacamino. Penso che per Miss Gibson le cose si mettano molto male, commentò una signora, piuttosto desiderosa di riportare la conversazione sull'argomento d'attualità. Ma non appena Mrs. Goodenough Udì questa normale osservazione sulle rivelazioni che lei aveva fatto, si girò avvampando verso chi aveva parlato. Niente affatto male. E vi prego di non usare quella parola a proposito di Molly Gibson, che io conosco da tutta la vita. È una cosa bizzarra, se proprio volete. Anch'io ero bizzarra da ragazza. Non potevo sopportare un piatto di uva spina già raccolta, ma dovevo andare io ad accucciarmi tra i cespugli e coglierla da me. A certuni piace così, anche se non a Miss Browning, che vuole che il corteggiamento si svolga tutto sotto il naso della famiglia. Quello che ho detto è solo che mi sono sorpresa a vedere Molly Gibson comportarsi in quel modo. Pensavo fosse il più tipico della bella Cinzia, come la chiamano. In effetti, un tempo ero pronta a giurare che Mr. Preston stesse dietro lei. E ora, signore, vi auguro una buonissima notte. Non sopporto gli sprechi e sono sicura che Sally ha lasciato che la candela nella lanterna abbia fatto scendere tutto il grasso invece che tirarla fuori, come le ho detto di fare se mai dovesse aspettarmi. Così, con formali e profonde riverenze, le signore si salutarono, non senza aver ringraziato Mrs. Dawes per la piacevole serata che avevano trascorso. Una cortesia d'altri tempi che veniva espressa sempre, all'epoca. Capitolo 47. Lo scandalo e le sue vittime. Quando Mr. Gibson ritornò a Hollingford, trovò ad attenderlo un tale accumulo di lavoro che egli quasi si ritrovò a lamentarsi delle conseguenze di quei 2 giorni di relativa vacanza, che avevano causato un eccesso di impegni per la settimana a venire. Quasi non ebbe il tempo di parlare con la sua famiglia, perché dovette immediatamente correre via per occuparsi di casi di malattie urgenti. Ma Molly riuscì a fermarlo nell'ingresso e, porgendogli l'ampio cappotto, così che lui lo potesse prontamente indossare, gli sussurrò: «Papà, Mr. Osborne Hamley è stato qui ieri. Voleva vederti. Sembra molto malato e ha evidentemente una gran paura per la propria salute». Mr. Gibson si voltò e la guardò per un momento. Ma tutto ciò che disse fu: «Andrò a visitarlo. Non dire a tua madre dove sono stato. Spero che tu non abbia fatto parola di questo con lei». «No», rispose Molly, che aveva menzionato a Mrs. Gibson solo il fatto della visita di Osborne e non le ragioni che l'avevano determinata. «Non dire nulla, non ce n'è bisogno. Ora che ci penso, oggi proprio non ci posso andare, ma lo farò». Qualcosa nell'atteggiamento di suo padre scoraggiò Molly, che si era convinta che l'evidente malattia di Osborne fosse in parte di natura nervosa, ovvero, come intendeva lei, immaginaria. La ragazza aveva ripensato all'espressione divertita con cui il ragazzo aveva reagito allo sguardo interrogativo di Miss Phoebe e aveva creduto che nessuno che si immaginasse veramente in pericolo avrebbe potuto scoccare quelle allegre occhiate. Ma dopo aver contemplato la serietà sul volto del padre, le ritornò in mente lo shock che l'aveva colpita la prima volta che aveva notato il mutamento nell'aspetto di Osborne. Nel frattempo, Mrs. Gibson era intenta a leggere una lettera di Cinzia che Mr. Gibson aveva portato da Londra. All'epoca, infatti, si approfittava di qualunque occasione per recapitare i messaggi di persona, date le spese postali così alte, e Cinzia aveva dimenticato così tante cose nella frettolosa preparazione dei suoi bagagli, che ora inviava una lista di articoli di abbigliamento di cui aveva bisogno. Molly quasi si domandò come mai quella comunicazione non fosse stata spedita a lei, ma non comprendeva quella sorta di ritrosia che si stava facendo strada nei suoi riguardi nella mente di Cinzia. La stessa Cinzia lottava contro quel sentimento e tentava di combatterlo, definendosi ingrata, ma la verità è che lei sentiva di non occupare più la posizione privilegiata di un tempo nell'opinione di Molly e non poteva fare a meno di allontanarsi da una persona che fosse a conoscenza di informazioni che la screditassero. Era pienamente cosciente di come Molly aveva deciso prontamente e agito generosamente e in una circostanza particolarmente odiosa, invece sua. Sapeva che Molly non avrebbe mai rievocato gli errori e i problemi del passato, eppure la consapevolezza che quella ragazza buona e schietta avesse appreso che Cinzia si era resa colpevole di tanti sotterfugi raffreddava i suoi sentimenti verso di lei e diminuiva la sua volontà di averci a che fare. Per quanto si rimproverasse di essere irriconoscente, non poteva che essere lieta di trovarsi lontana da Molly. Era imbarazzante parlare con lei come se non fosse successo nulla. La metteva a disagio il fatto di scriverle i pizzi e nastri dimenticati, quando la loro unica conversazione aveva trattato argomenti di natura così diversa e aveva evocato così veementi espressioni emotive. Così Mrs. Gibson teneva in mano quella lista e leggeva ad alta voce i frammenti di notizie che si mescolavano alle informazioni sulle esigenze di Cinzia. Ellen non può essere così ammalata, osservò Molly alla fine, altrimenti Cinzia non chiederebbe la sua mussola rosa e la coroncina di margherite. Non vedo proprio questo cosa c'entri, replicò piuttosto bruscamente Mrs. Gibson. Ellen non sarebbe mai così egoista da tenersi Cinzia incollata addosso, per quanto ammalata sia. Anzi, non avrei ritenuto che fosse un mio dovere permettere a Cinzia di andare a Londra se avessi pensato che sarebbe stata esposta perpetuamente all'atmosfera deprimente della stanza di un'invalida. Inoltre, deve fare un gran bene a Helen sentire Cinzia che rientra a casa con le belle e divertenti descrizioni delle feste a cui ha partecipato. Anche se a Cinzia dispiacesse l'allegria, io vorrei che si sacrificasse e uscisse quanto più spesso possibile per il bene di Helen. La mia idea di prendersi cura di un ammalato è che una persona non debba sempre pensare ai propri sentimenti e ai propri desideri, ma che debba agire in modo tale da portare una distrazione alle noiose ore dell'invalido. Certo, sono ben poche le persone che hanno dovuto affrontare questa necessità con l'attenzione con cui l'ho fatto io. E qui Mrs. Gibson ritenne doveroso sospirare prima di continuare con la lettera di Cinzia. Da quel che Molly riuscì a capire di quella missiva piuttosto incoerente e letta ad alta voce in modo altrettanto sconnesso, Cinzia era molto lieta e compiaciuta di poter essere di utilità e conforto per Ellen, ma allo stesso tempo era decisamente pronta a lasciarsi facilmente persuadere a partecipare ai continui piccoli divertimenti che abbondavano nella casa londinese dello zio, persino in quella stagione morta dell'anno. A un certo punto Mrs. Gibson si imbatté nel nome di Mr. Henderson e poi continuò a borbottare tra sé con che suonava molto misterioso, ma che avrebbe potuto benissimo essere evitato, già che tutto ciò che Cinzia veramente scrisse di lui era. La madre di Mr. Henderson ha consigliato alla zia di consultare un certo dottor Donaldson, che si dice è molto bravo in casi come quelli di Helen, ma lo zio non era sufficientemente sicuro dell'etichetta professionale. Seguiva un messaggio molto affettuoso e redatto con estrema attenzione all'indirizzo di Molly, un messaggio che implicava molto più amore e gratitudine per il problema che ella aveva affrontato invece di Cinzia, in quanto esprimesse direttamente. Ed era tutto. Molly se ne andò un po' demoralizzata e non sapeva perché. L'operazione di Lady Kevnor ebbe successo e si sperava di riportarla entro pochi giorni alle torri per farle recuperare le forze grazie all'aria fresca della campagna. Il caso era di grande interesse per Mr. Gibson e la sua diagnosi si era rivelata corretta, contrariamente a quella di uno o due grandi nomi di Londra. Di conseguenza, nel processo della convalescenza, egli fu frequentemente convocato e consultato, e poiché aveva anche molto da fare nei dintorni immediati del sobbalgo di Hollingford, nonché da scrivere lettere particolarmente accurate ai suoi confratelli medici londinesi, l'uomo trovò difficile ritagliarsi le 3 o 4 ore necessarie per recarsi a Hamley e visitare Osborne. Gli scrisse però, pregandolo di rispondere immediatamente e di descrivere dettagliatamente i suoi sintomi, e dalla replica che ricevette non immaginò che il caso fosse così urgente. Anche Osborne lo pregò di non accorrere a Hamley con il solito scopo di visitarlo, così l'incontro fu posticipato a quella stagione più convincente in cui spesso è ormai troppo tardi. Nel frattempo, i mormorii e i pettegolezzi riguardo agli incontri di Molly con Mr. Preston, alla sua corrispondenza clandestina e alle conversazioni solitarie in luoghi appartati si erano rafforzati e andavano assumendo la natura distinta dello scandalo. La ragazza, semplice e innocente, che camminava per le strade tranquille senza pensare minimamente di essere l'oggetto di implicazioni misteriose, per un certo periodo divenne l'inconsapevole pecora nera del villaggio. I domestici udivano parte di quanto veniva riferito nei salotti delle loro padrone e, parlando tra loro, esageravano le informazioni ed enfatizzavano crudamente le espressioni, come d'uso tra le persone non istruite. Lo stesso Mr. Preston si accorse che il nome della giovane veniva accostato al proprio, anche se non fino al punto a cui il gusto per l'eccitazione e per le chiacchiere aveva spinto i discorsi della gente. Quel malinteso lo Lo fece ridacchiare e non si preoccupò di correggerlo. Le serva di lezione, si disse, per essersi impicciata degli affari altrui. E così egli si sentiva indicato per la sconfitta che aveva subito quando lei aveva minacciato di rivolgersi a Lady Harriet e per la mortificazione che aveva provato nel sentire dalle schiette labbra di Molly che lei e Cinzia avevano parlato di lui, l'una esprimendo evidente disprezzo e l'altra disgusto. Per giunta, se una qualunque smentita da parte di Mr. Preston avesse incoraggiato un'indagine a proposito della verità dei fatti, si sarebbe venuto a sapere di più in merito ai suoi vani tentativi di costringere Cinzia a mantenere fede al fidanzamento con lui di quanto il giovane desiderasse divulgare. Era arrabbiato con se stesso per il fatto di essere ancora innamorato di Cinzia, innamorato a modo suo, intendiamoci. Egli si ripeteva che molte donne di più alto rango e maggiori ricchezze sarebbero state felici di prenderselo. Alcune di loro erano anche belle. E si domandava perché, da maledetto stolto, avesse bramato di sposare una ragazza senza un penny, volubile come il vento. La risposta era piuttosto sciocca, a rigor di logica, ma effettivamente efficace. Cinzia era Cinzia, e neppure Venere in persona avrebbe potuto sostituirla. Sotto quest'unico aspetto, Mr. Preston era più costante di molti uomini di valore, i quali, volendosi sposare, passano con distratta facilità da un obiettivo irraggiungibile a uno raggiungibile e mantengono i loro sentimenti e i loro desideri tollerabilmente laschi, fino a che non trovano una donna che acconsenta a diventare la loro sposa. Nessuna, invece, sarebbe stata per Mr. Preston ciò che Cinzia era stata ed era tuttora, eppure lui, quando era di un certo umore, l'avrebbe pugnalata. Così non era certo probabile che Molly, che si era intromessa tra lui e l'oggetto delle sue brame, incontrasse le sue simpatie o ottenesse favori da parte sua. Arrivò il momento, non molto dopo la serata a casa di Mrs. Dawes, in cui Molly si rese conto che la gente la guardava storto. Mrs. Goodenough strattonava palesemente la nipote quando la ragazza si fermava per strada a parlare con Molly e un appuntamento che le due giovani si erano date per una lunga passeggiata insieme fu cancellato molto bruscamente con una scusa piuttosto futile. Mrs. Goodenough spiegò così la propria condotta ad alcune delle sue amiche. Vedete, io non penso il peggio di una ragazza che incontra il suo fidanzato di qua, di là e ovunque, fino a che non si comincia a parlarne in giro. E allora, quando è così, e il nome di Molly Gibson è sulla bocca di tutti, credo sia giusto nei confronti di Bessie, che mi ha affidato Annabella, non permettere a sua figlia di farsi vedere in compagnia di una ragazza che ha gestito così male i propri affari, tanto da indurre la gente a parlare di lei. Il mio motto è, e funziona proprio bene, fidatevi, che le donne dovrebbero badare a ciò che fanno e non dovrebbero mai far parlare di sé. E se ci sono chiacchiere riguardo a una donna, meno le sue amiche hanno a che fare con lei, finché i pettegolezzi non sono finiti, tanto meglio. Perciò Annabella non avrà niente a che spartire con Molly Gibson e comunque non durante questa visita. Per un bel po' le signorine Browning furono tenute all'oscuro delle male lingue che sussurravano parole dure all'indirizzo di Molly. Si sapeva che Miss Browning aveva un caratterino e per istinto chiunque venisse in contatto con lei evitava di punzecchiare quel caratterino con la pronuncia di anche una sola sillaba contro la più piccola delle creature che la donna proteggeva con l'egida del suo affetto. Le avrebbe rimproverate lei stessa, lo faceva, era solita vantarsi del fatto che mai le avrebbe risparmiate, ma nessun altro poteva toccarle, nemmeno con la più lieve accusa o con una parola fuggevole. Miss Febe, invece, non ispirava cotanto terrore. La ragione principale per cui ella non venne a conoscenza dei pettegolezzi su Molly, non appena ne seppero gli altri, fu che benché non fosse lei stessa la rosa, ci viveva accanto. Inoltre, la sua natura era così tenera che persino Mrs. Goodenough, con la sua pellaccia dura, non se la sentiva di dire qualcosa che avrebbe arrecato un dolore a Miss Febe. E fu la nuova arrivata, Mrs. Dawes, a fare un'allusione nella sua ignoranza a ciò che si diceva nel villaggio, come se Miss Febe dovesse esserne informata. Allora Miss Febe la subissò di domande, pur protestando tra le lacrime e affermando di non credere assolutamente a nessuna delle risposte che riceveva. Fu un piccolo atto di eroismo da parte sua, tenere segreto alla sorella Sally tutto ciò che apprese. Cosa che riuscì a fare per 4 o 5 giorni, finché una sera Miss Browning l'attaccò con queste parole. Febe, o hai una ragione per gonfiarti di sospiri o non ce l'hai. Se c'è un motivo, è tuo dovere dirmelo subito. E se non c'è, devi subito interrompere questa pessima abitudine che ti è presa. Oh, sorella, davvero pensi che sia mio dovere dirtelo? Sarebbe un tale conforto, però ho pensato che non avrei dovuto. Ti metterebbe in tale agitazione. Sciocchezze, sono così preparata alle disgrazie, già che contemplo con frequenza la possibilità che si verifichino, che credo di poter ricevere qualsiasi cattiva notizia con apparente equanimità e vera rassegnazione. Inoltre, quando ieri a colazione hai detto che intendevi dedicare l'intera giornata a riordinare i tuoi cassetti, ho capito che stava per capitare qualche calamità, anche se naturalmente non potevo giudicarne la portata. La banca di Highchester è fallita? Oh, no, sorella, disse Febe, spostandosi più vicino a lei sul sofà. Davvero hai pensato questo? Vorrei averti detto subito cosa sono venuta a sapere, se questo è quanto ti sei immaginata. Ti serva di lezione, Febe, e impara a non nascondermi niente. Ho pensato che dovevamo essere cadute in rovina da come ti comportavi. Non hai mangiato carne a cena e non hai fatto altro che sospirare. Allora, cosa c'hai? Quasi non so come dirtelo, Sally. Davvero non lo so. Miss Febe si mise a piangere. Miss Browning le afferrò un braccio e la scosse leggermente. Piangi quanto ti pare, dopo che mi avrai raccontato. Ma non adesso, bambina. Mi stai tenendo sulle spine. Molly Gibson. Si è rovinata la reputazione, sorella. Ecco. Molly Gibson non ha fatto niente del genere, ribatté indignata Miss Browning. Come osi ripetere certe storie sul conto della figlia della povera Mary? Non voglio più sentirti dire queste cose. Non posso evitarlo. Me l'ha raccontato Mrs. Dawes. Dice che se ne parla in tutta la città. Io le ho detto che non credo una parola. Te l'ho tenuto nascosto e penso che mi sarei davvero ammalata se me lo fossi tenuta per me ancora un po'. Oh, sorella, cosa hai intenzione di fare? Miss Browning, infatti, si era alzata senza proferire parola e stava lasciando la stanza con passo solenne e determinato. Mi metterò il cappellino e il resto e andrò a far visita a Mrs. Dawes per metterla di fronte alle sue menzogne. Oh, non chiamarle menzogne, sorella, è una parola così brutta, così forte. Ti prego, chiamale bubole. Perché non credo che le intendesse fare del male a qualcuno. E poi, se si scoprisse che è tutto vero. Ecco, sorella, questo è il mio cruccio. Tante cose sembravano proprio vere. Quali cose? Fece Miss Browning, ancora ferma, eretta, in piedi, in mezzo alla stanza, con l'atteggiamento del giudice. Beh, una delle storie che si raccontano è che Molly a lui ha consegnato una lettera. Ma chi è lui? Come posso capire cosa è successo se lo racconti in modo così assurdo? Miss Browning sedette sulla sedia più vicina e si costrinse a portare pazienza per quanto possibile. Lui è Mr. Preston, e questo deve essere vero perché quando mi sono girata per chiederle se pensava che l'azzurro sarebbe sembrato verde alla luce della candela, come diceva il giovanotto, lei non c'era. Aveva attraversato di corsa la strada e Mrs. Goodenough stava entrando in quel momento nel negozio proprio come lei ha detto. La rabbia di Miss Browning stava per essere superata dall'agitazione, perciò ella disse solo: Febe, penso che mi farai ammattire. Riferiscimi cosa hai saputo da Mrs. Dawes in modo sensato e coerente per una volta. Ti assicuro che sto tentando con tutte le mie forze di raccontarti ogni cosa così com'è successa. Come. Cosa hai saputo da Mrs. Dawes? Ecco, che Molly e Mr. Preston si tengono compagnia, proprio come se lei fosse una servetta e lui un giardiniere, che si incontrano in tutti i luoghi e negli orari più sconvenienti, e lei gli è svenuta fra le braccia, e sono stati fuori insieme di notte, e si scrivono, e si fanno scivolare le lettere in mano l'una con l'altra. Ecco di cosa stavo parlando, sorella, perché io stessa l'ho quasi visto fare una volta. L'ho visto con i miei occhi attraversare la strada di corsa per entrare da Grinstead, dove c'era lui, perché l'avevamo appena lasciato, e con una lettera in mano per giunta, che non c'era quando è tornata, tutta rossa e agitata. Al momento però io non ho pensato a niente, Ma adesso tutta la città ne parla e grida allo scandalo e si dice che devono sposarsi. Miss Febe riprese a singhiozzare, ma fu subito fatta tornare in sé da un bel ceffone sull'orecchio. Miss Browning era davanti a lei, quasi tremante per l'irruenza delle sue passioni. Febe, se mai ti sentirò ripetere queste cose, ti caccerò fuori di casa all'istante. Ho solo riferito quanto detto Mrs. Dawes e tu mi hai chiesto di cosa si trattasse, ribatté umile e mansueta Miss Febe. Sally, non avresti dovuto farlo. Non importa cosa avrei dovuto o non dovuto fare, non è questo il problema. Quello che devo decidere è come mettere un freno a tutte queste menzogne. Ma Sally, non sono tutte menzogne. Se proprio devi chiamarle così, temo che alcune cose siano vere, anche se io insistevo che fossero false mentre Mrs. Dawes me ne parlava. Se vado da Mrs. Dawes e lei le ripete anche a me, temo che la schiaffeggerò o le darò un ceffone sull'orecchio, perché non sopporto che si dicano certe cose sulla figlia della povera Mary, neanche fossero notizie sensazionali come il maiale a due teste di James Horrocks, disse Miss Browning, meditando ad alta voce. Questo farebbe più male che bene. Febe, mi spiace tanto di averti picchiata, ma sappi che lo rifarei di nuovo se tu ripetessi la medesima storia. Febe sedette accanto alla sorella, le prese una delle mani avvizzite e iniziò a carezzarla con il gesto che significava che accettava le sue scuse. Se parlassi con Molly, la bambina negherebbe tutto. Se è una buona nulla, anche solo la metà di quanto si dice di lei, e se non lo è, l'unico risultato sarà di farla preoccupare a morte. No, non va bene. Mrs. Goodenough, ma lei è un'asina. E se la convinco, lei non riuscirebbe a persuadere nessun altro. No, Mrs. Dawes, che ha parlato con te, mi racconterà ogni cosa. Io mi terrò le mani legate dentro il manicotto e mi controllerò per stare calma. E una volta sentito ciò che devo sapere, metterò la faccenda nelle mani di Mr. Gibson. Ecco cosa farò. Perciò è inutile che ti opponi, Febe, perché non ti ascolterò. Miss Browning si recò da Mrs. Dawes e iniziò cortesemente a porle delle domande in merito alle voci che giravano a Hollingford sul conto di Molly e Mr. Preston. Mrs. Dawes cadde nella trappola e riportò tutte le circostanze reali e false della storia di cui si chiacchierava, del tutto inconsapevole della tempesta che stava montando e che era pronta a precipitare su di lei non appena avesse finito di parlare. Lei però non era abituata da tanto tempo a nutrire per Miss Browning la reverenza che avrebbe impedito a tante signore di Hollingford di addurre giustificazioni ai torti che lei avrebbe potuto trovare in loro. Mrs. Dawes garantì per se stessa e per la propria sincerità nel riferire di uno scandalo al quale lei personalmente non credeva, ma molta gente sì, e addusse così tante prove a sostegno della verità di quanto diceva e reputava che Miss Browning ne fu quasi soggiogata. E alla fine dell'apologia di Mrs. Dawes rimase seduta in silenzio, addolorata. Bene, commentò alla fine alzandosi dalla sedia. Mi dispiace davvero molto di essere vissuta fino a questo giorno. Per me è un colpo, come se avessi sentito parlare di questi avvenimenti in merito alla mia carne e al mio sangue. Immagino di dovermi scusare con voi, Mrs. Dawes, per ciò che ho detto, ma oggi non ho cuore di farlo. Non avrei dovuto parlare come ho fatto, ma vedete, non ha importanza data la vicenda. Spero mi farete il favore di capire che ho solo ripetuto ciò che ho preso da fonte sicura, Miss Browning, replicò Mrs. Dawes. Mia cara, non riportate malvagità ad alcuna fonte, a meno che parlandole non possiate fare del bene, disse Miss Browning, posando la mano sulla spalla di Mrs. Dawes. Io non sono una donna buona, ma so cosa è buono, e questo consiglio lo è. E ora penso di potervi dire che vi chiedo perdono per esservi saltata su in quel modo, ma Dio sa che dolore mi state arrecando. Mi perdonerete, vero cara? Mrs. Dawes sentì tremare la mano sulla propria spalla e comprese la sofferenza di Miss Browning, perciò non le fu difficile accordare il perdono richiesto. Dopodiché Miss Browning tornò a casa e disse a Febe solo poche parole. La sorella, però, comprese che l'altra aveva ricevuto conferma delle dicerie e non aveva bisogno di ulteriori spiegazioni per la cena appena assaggiata, le risposte secche e gli sguardi tristi. Poco dopo Miss Browning si mise a sedere per scrivere un breve biglietto, poi suonò al campanello e ordinò alla cameriera che rispose alla chiamata di andare a consegnarlo a Mr. Gibson e se egli fosse stato fuori di assicurarsi che gli venisse recapitato non appena di ritorno a casa. Infine andò a mettersi la cuffietta della domenica e Miss Phoebe seppe che la sorella aveva chiesto a Mr. Gibson di andare da loro per raccontargli delle chiacchiere che giravano su sua figlia. Miss Browning era molto turbata per quanto aveva appreso e per il compito che l'aspettava. Era agitata, soffriva ed era irritabile con Miss Phoebe, tanto che la reticella di cotone su cui stava lavorando continuava a scapparle e a strapparsi per via del moto nervoso delle sue mani. Quando si udì bussare alla porta, era il noto bussare del dottore. Miss Browning si tolse gli occhiali e si lasciò cadere sul tappeto, rompendoli. Allora chiese a Miss Phoebe di lasciare la stanza, come se fosse stata la sua presenza a lanciare il malocchio e a causare la disgrazia. Voleva apparire naturale ed era agitata perché non ricordava se di solito accoglieva il medico da seduta o stando in piedi. Bene, salutò lui, entrando tutto allegro e sfregandosi le mani fredde e avvicinandole al fuoco. Che problema abbiamo? Immagino si tratti di febbre. Spero non siano i suoi vecchi spasmi, ma dopo tutto una dose o due metteranno tutto a posto. Oh, Mr. Gibson, vorrei si trattasse di febbre o di me, fece Miss Browning tremando sempre di più. Egli sedette con pazienza accanto a lei, quando si accorse di quant'era agitata, e le prese la mano con gesto amico, gentile. Non vi inquietate, prendetevi il vostro tempo. Di certo non va male come voi credete, ma adesso ci pensiamo. C'è molto aiuto nel mondo, tanto quanto noi ne abusiamo. Mister Gibson, riprese lei, è per la vostra Molly che sono così addolorata. Ecco, l'ho detto, è che Dio ci aiuti entrambi, e anche la povera bambina, perché non ho dubbi che è stata traviata e non ha agito male di sua spontanea volontà. Molly? Esclamò lui, combattendo contro le sue parole. Cosa ha detto o fatto la mia piccola Molly? Oh, Mr. Gibson, non so come dirvelo. Mai avrei voluto nominare questa cosa se non ne fossi stata convinta dolorosamente contro la mia stessa volontà. In ogni caso, potete farmi sapere ciò che avete sentito, disse lui, posando il gomito sul tavolo e schermandosi gli occhi con la mano. Non che io abbia la minima paura di qualunque cosa possiate aver udito sulla mia ragazzina, continuò. È solo che in questo piccolo nido di pettegolezzi è sempre meglio sapere di cosa parla la gente. Dicono. Oh, come faccio a dirvelo? Continuate, no? Insistette lui, togliendo la mano dagli occhi che fiammeggiavano. Non ho intenzione di crederci, perciò non abbiate paura. Ma temo che dovrete crederci. Non lo farei se potessi. Lei sta portando avanti una corrispondenza clandestina con Mr. Preston. Mr. Preston, ripete lui. Lo incontra in tutti i luoghi, negli orari più sconvenienti, all'aperto, al buio, ed è svenuta tra le sue braccia, se devo dirla tutta. Ne parla tutta la città. La mano di Mr. Gibson tornò davanti ai suoi occhi ed egli non fece altro cenno. Così Miss Browning proseguì un pezzettino alla volta. Mr. Sheepshanks li ha visti insieme. Si sono scambiati dei biglietti nel negozio di Grinstead. Lei lo ha raggiunto lì di corsa. Potete tacere? La interruppe Mr. Gibson, togliendo la mano dagli occhi e mostrando un volto lugubre. Ho sentito abbastanza. Basta così. Ho detto che non ci avrei creduto, infatti non ci credo. Immagino di dovervi ringraziare per avermi riferito, ma adesso non ci riesco. Non voglio la vostra gratitudine, disse Miss Browning quasi piangendo. Ho pensato che dovevate saperlo perché, nonostante vi siate risposato, io non posso dimenticare che un tempo eravate il marito della cara Mary e che Molly è sua figlia. Preferirei non parlarne più in questo momento, ribadì lui, senza rispondere all'ultima frase di Miss Browning. Potrei non controllarmi come dovrei. Vorrei solo incontrare Mr. Preston e frustarlo tanto da ridurlo in fin di vita. Vorrei curarle io queste comari maldicenti. Farei tacere la loro lingua per un bel po'. La mia figliola, che male ha fatto a tutte loro da indurle a gettar fango sul suo buon nome? In realtà, Mr. Preston, io temo sia tutto vero. Non vi avrei mandato a chiamare se non avessi esaminato la faccenda. Accertatevi della verità prima di compiere un atto violento come frustare o avvelenare. Con tutte le conseguenze di un uomo in preda alle sue passioni, Mr. Gibson scoppiò a ridere. E chi ha parlato di frustare e avvelenare? Pensate che permetterei che il nome di Molly venisse trascinato nella polvere in connessione con un mio atto violento. Lasciamo che le chiacchiere muoiano, così come sono nate. Il tempo proverà che sono falsità. Ma io non penso che accadrà ed è questo il problema, ripete Miss Browning. Voi dovete fare qualcosa, ma non so cosa. Andrò a casa e chiederò a Molly in persona cosa significa tutto questo. Ed è tutto ciò che farò. È troppo ridicolo, conoscendo Molly come la conosco io. Perfettamente ridicolo. Si alzò e si mise a passeggiare frettolosamente per la stanza, di tanto in tanto scoppiando in risate innaturali. Insomma, e poi cosa diranno? Satana trova ancora qualche malanno da far commettere alle lingue delle indolenti? Vi prego di non nominare Satana in questa casa. Nessuno sa cosa può succedere se si parla di lui con leggerezza, dichiarò Miss Browning. Ma egli proseguì senza badarle a parlare tra sé e sé. Mi viene una gran voglia di andarmene da questo posto. E quale scandalo alimenterebbe una follia del genere? Poi tacque per un po'. Le mani in tasca, gli occhi fissi per terra mentre continuava la sua marcia da casseretto. All'improvviso si arrestò accanto alla sedia di Miss Browning. Sono decisamente riconoscente nei vostri confronti per l'autentico gesto di amicizia che mi avete dimostrato. Vero o falso, era giusto che io sapessi di questo infame scandalo e non deve essere stato piacevole per voi parlarmene. Grazie dal profondo del mio cuore. Davvero, Mr. Gibson. Se fosse stato falso, non avrei mai fatto parola, ma lasciamo stare. Eppure non è vero, ribadì lui, tenace, lasciando la mano che aveva preso nell'effusione della sua gratitudine. La donna scosse il capo. Io vorrò sempre bene a Molly per amor di sua madre, affermò. E questa fu una grande concessione da parte della precisa Miss Browning, ma il padre della ragazza non l'interpretò in questo modo. Dovete amarla per ciò che lei è. Non ha fatto nulla per degradarsi. Andrò subito a casa e suonerò la verità. Come se la povera ragazza, che si è lasciata già una volta traviare a perpetrare un inganno, si facesse tanti scrupoli a perseverare nella falsità, fu il commento di Miss Browning a quest'ultima frase di Mr. Gibson. Ma ella fu abbastanza discreta ad aspettare a pronunciarla, fino a che lui non fosse abbastanza lontano da non udirla più.